Benvenuti e benvenuti a una nuova puntata della Fuga del Gatto, come avrete sicuramente riconosciuto dalla sigla. E oggi, questa domenica 27 novembre, vi parlerò di... siccome in realtà non avevo molto tempo di preparare una gran puntata come abbiamo fatto invece nelle altre volte con Virginia, dove ci siamo preparati un sacco di cose, vi abbiamo raccontato un sacco di gossip e amenità, questa domenica in realtà sono stata un po' pigra e quindi sopperirò con una opera sinfonica che vi farò sentire per intero, dalla durata di 35 minuti circa ininterrotti. E quindi sarà una cosa un po' anomala, perché appunto non farò come le altre puntate che alternerò parlato e musica, ma vi farò una piccola parte introduttiva all'inizio dove vi racconterò un po' il personaggio di oggi e vi introdurrò un minimo la sinfonia che andremo ad ascoltare, e poi ve la farò sentire tutta in integrale per intero questa sinfonia. Oggi parliamo di Richard Strauss, per esteso Richard Georg Strauss, nato a Monaco di Baviera l'11 giugno del 1864 e morto a Garmisch e Partenkirchen, veramente impronunciabile, scusatemi, ma il mio tedesco è una cosa orribile. L'8 settembre del 1949, quindi si è vissuto la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, un periodino, soprattutto in Germania, particolare e interessante, ecco come dire. Richard Strauss è stato appunto un compositore del periodo che viene normalmente chiamato tardo romantico, la fine del periodo romantico, e poi vedremo un po' le trasformazioni che ha subito questo periodo. Non è da confondere, non vi sbagliate, con gli Strauss, quelli viennesi, per intendersi il valzer viennese, il valzer di Strauss che sentiamo a Capodanno, non c'entra niente, non era parente, quindi vabbè, era un nome, come dire, Rossi in Italia, quindi anche lui si chiamava Strauss, che ne poteva, ma non c'entra niente con loro. In realtà, per parlarvi di Strauss oggi, anziché spulciare dalla rete un po' qua e là informazioni, mi affido quasi totalmente a questo libro che si chiama Il resto è rumore di Alex Ross, sottotitolo Ascoltando il XX secolo. È ormai un classico della letteratura saggistica. Musicale, ma diciamo della storia della musica, ma non solo, insomma, diciamo che come tutta la letteratura sulla storia della musica ben fatta, parte la musica per arrivare ben oltre, ovviamente. È un libro, secondo me, molto bello, è un tomo enorme. Come sentite, mi è cascato sul tavolo e si sente quando casca perché sono più di 800 pagine. Però io ve lo consiglio se siete amanti e curiosi di queste cose, perché in maniera non lineare ripercorre un po' qua e un po' là la storia del Novecento attraverso i suoi interpreti, fermandosi in realtà alla musica classica, contemporanea e moderna e jazz, arriva fino al jazz. In realtà non tanto oltre, la musica cosiddetta popolare non la prende in considerazione, però insomma resta comunque un documento molto molto interessante e anche avvincente da leggere, che vi consiglio. E vi leggo appunto da questo libro quello che Alex Ross dice tante altre cose, ma anche proprio su Richard Strauss, ma in particolare tra i vari aneddoti e tra le varie cose che racconta c'è questo. Richard Strauss crebbe quasi letteralmente all'ombra di Wagner. Suo padre, il virtuoso del corno francese Franz Strauss, suonava nell'orchestra di corte di Monaco che faceva capo al re Ludwig II, il mecenate di Wagner, per l'appunto. Strauss padre era però un flemmatico reazionario musicale che reputava le opere di Wagner imparagonabili ai classici viennesi. Richard, nell'adolescenza, ripeteva in modo pappagallesco i pregiudizi del padre, sostenendo che senza dubbio tra 10 anni nessuno saprà chi sia R Richard Wagner. E non ci ha dato in effetti moltissimo. Ma già al tempo delle critiche a Wagner, il compositore adolescente ne studiava gli espedienti armonici che avrebbe fatto propri. Franz Strauss era una persona acrimoniosa, Franz, appunto il padre, irascibile e violenta. La moglie Josephine, mite e nervosa, finì per impazzire e dovette essere internata. Il loro figlio, come molti sopravvissuti a famiglie piene di problemi, era determinato a mantenere una facciata di compostezza e distacco dietro alla quale ardeva il fuoco dell'eccentricità. Nel 1884, all'età di 24 anni, conquistò il successo con il poema sinfonico, come li chiamava lui, Don Juan. Il Don Juan fu scritto sotto l'influenza del compositore e filosofo Alexander Ritter, uno dei numerosi piccoli Wagner, li chiama Alex Ross, che popolavano l'impero del Kaiser. Intorno al 1883, Ritter aveva coinvolto il giovane Strauss nel movimento della Nuova Germania, che, nello spirito di Liszt e Wagner, abbandonò le strutture chiaramente definite della tradizione viennese, primo tema, secondo tema, esposizione, sviluppo, eccetera, in favore di un approccio svincolato dalle regole, spontaneo, infiammato dal lirismo poetico. Strauss, e qui nota di gossip, divenne inoltre amico di Cosima Wagner, la vedova del compositore, e si mormorava che avrebbe formato una splendida coppia con Eva, la figlia del Meister. Strauss appunto ebbe un rapporto un po' di amore e odio nei confronti di Wagner, che all'epoca appunto dominava la scena tedesca, dominava sia che lo si amasse sia che lo si odiasse, di fatto era il centro un po' in quel momento. Dice sempre Alex Ross, in cerca di un'alternativa al wagnerismo, Strauss lesse Max Stirner, pensatore anarchico della prima metà del XIX secolo, il cui libro, L'unico è la sua proprietà, affermava che tutte le forme di religione organizzata, così come tutte le società organizzate, tengono prigioniero l'individuo con le illusioni della moralità, del dovere e della legalità. L'individualismo anarchico diede a Strauss la possibilità di prendere le distanze dalle dispute stilistiche della sua epoca. Il libretto del Guntram, un'altra opera di cui oggi non vi parlerò e non vi posso parlare dell'immensità delle opere di Strauss, però ve le cito, è costellato di quasi citazioni dall'unico e la sua proprietà. Stirner critica il bel sogno, tra virgolette, del concetto liberale di umanità. Guntram usa la stessa frase e aggiunge sprezzantemente: continuate a sognare, brava gente, la salvezza dell'umanità. Era un periodino, insomma, quello lì in cui non è che si poteva dare torto, cioè era un geist abbastanza cupo quello de dell'epoca, per cui non ti veniva proprio di sperare nell'umanità, ecco. Non che Richard Strauss, lo vedremo dopo, si sottraesse alla cupezza degli uomini di cui lui parlava, perché insomma non era un personaggino particolarmente simpatico, era molto controverso e non saprei bene se classificarlo tra i buoni o i cattivi, ma diciamo che sicuramente poteva stare a metà e forse pendeva più dalla parte di quelli antipatici, ma insomma era probabilmente appunto partecipava allo spirito del tempo. La première del 1894 del Guntram, che dicevamo prima, fu un fiasco, soprattutto perché l'orchestrazione soverchiò i cantanti. Era ancora, ripeto, molto giovane Strauss quando scrisse queste opere. Ma è possibile che anche il finale amorale fosse stato fonte di problemi. Strauss rispose ostentando una posa antagonistica, dichiarando guerra agli apostoli della moderazione. Insomma, era un periodino, appunto. Nei suoi leader, Strauss si fece un dovere di mettere in musica i versi di poeti di dubbia reputazione, tra cui Richard Demel, vituperato per la sua difesa del libero amore, Karl Henkel, messo al bando in Germania per il suo socialismo dichiarato, Oskar Panizza, imprigionato per crimini contro la religione commessi a mezzo stampa, e John Henry Mackay, biografo di Max Stirner e autore degli Anarchici, che sotto lo pseudonimo di Sagitta avrebbe in seguito scritto libri che celebravano l'amore tra uomini e ragazzi. Insomma, aveva scelto tutti dei personaggini quantomeno eccentrici o poco usuali per la musica classica di quel tempo. Nel frattempo, Strauss continuò ad approfondire il tema che stava alla base del Guntram, il conflitto tra l'individuo e la collettività. Tale lotta sembra sempre destinata alla sconfitta, alla rassegnazione o alla ritirata. Gran parte di queste opere cominciano con dichiarazioni eroiche per concludersi scivolando nel silenzio. E lo vedremo anche nell'opera sinfonica che vi farò ascoltare, andrà così anche lì. Gran parte di queste opere, no, questo l'ho già letto, alcuni studiosi contemporanei di Strauss sostengono che il compositore affrontò gli ideali di trascendenza dell'era romantica con lo scetticismo filosofico assimilato da Schopenhauer e Nietzsche. Il wagnerismo implode, risucchiato dal buco nero dell'ironia. In realtà, poi, andando a guardare a fondo le opere di Strauss, sì, era molto cupo, molto nichilista e molto scoraggiato e scorato verso il genere umano, Ricordiamoci appunto, si parlava della fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento in Germania, insomma, non era un bel periodino. Ma nell'universo di Strauss, continua Alex Ross, né il resto è rumore, ci sono tuttavia voci consolatrici e il più delle volte si tratta di voci di donna. Le donne, delle sue opere esprimono schiettamente i propri sentimenti e pensieri. I personaggi maschili, per converso, appaiono spesso non in quanto protagonisti, bensì come oggetti d'amore e addirittura trofei sessuali. Gli uomini di potere tendono ad essere volubili, viziosi, ottusi. E era un personaggio appunto strano, Strauss, Richard Strauss, che di fatto appunto parlava, faceva parlare autori controversi, discussi e niente affatto usuali, dava alle donne dei ruoli consolatori e in qualche modo positivi, al contrario di quelli maschili, e tuttavia non era niente affatto quello che noi potremmo intendere un ribelle, un rivoluzionario, un personaggio che può piacere a noi ascoltatori di Wombat Radio, diciamo. E infatti, continua questa lettura, ve la continuo, perché Alex Ross cita Schoenberg: «Non sono mai stato un rivoluzionario», disse una volta Arnold Schoenberg. «Nella nostra epoca l'unico rivoluzionario era Strauss». In definitiva, il compositore della Salomè non si adatta né al profilo del rivoluzionario né a quello del reazionario. Il suo status de facto di gran compositore tedesco era costantemente fonte di inquietudine. Sembrava troppo volubile e perfino troppo effeminato per quel ruolo. Inoltre, Strauss, ricordiamoci, ve lo ricordo ancora, eravamo all'ascesa del Reich. Inoltre Strauss era troppo attratto dal denaro, o più precisamente manifestava troppo apertamente la sua attrazione per il denaro. Più che un genio, una società per azioni, disse in seguito Krauss. Ad esempio, leggevo che Strauss diventò ricco e la sua villa venne, ma lui era già di famiglia molto agiata in realtà, ma la sua villa, famosa peraltro, se la comprò grazie ai diritti d'autore delle sue opere, e lui fu proprio quello che fondò l'equivalente della SIAE in Germania. E pare appunto che fosse molto attaccato ai soldi, quindi non proprio il prototipo dell'idealista romantico che potremmo avere in testa, ecco. E si discute anche molto del fatto che Richard Strauss, avendo un ruolo di potere di fatto all'epoca del nazismo, si discute del fatto che fosse nazista o meno. Sicuramente non era un antinazista aperto e sicuramente non era un temerario rivoluzionario per niente, perché lui il suo posto di lavoro se l'è conservato fino alla fine, nessuno gli ha detto niente, quindi evidentemente insomma, sapeva da che parte stare. A sua discolpa c'è da dire che non si schierò mai neanche apertamente a favore del nazismo. Per esempio, gli viene contestato il fatto di aver diretto durante le Olimpiadi del 1936 l'inno nazionalsocialista. In realtà questa cosa, che è un po' diventata una leggenda, non è assolutamente vero. Lui non ha mai diretto l'inno nazionalsocialista, bensì un altro, sempre durante la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi, un'altra opera che aveva scritto lui per le Olimpiadi in generale. Ora, questo non è che proprio lo discolpi, assolutamente, però insomma diciamo che viene un po' ridimensionata la questione. Inoltre, continua a leggere Alex Ross. Non c'era qualcosa di un po' giudaico in Strauss, insinuò il giornale antisemita francese Le Libre Parole. Il fatto che Strauss apprezzasse la compagnia dei miliardari ebrei non passò inosservato. Sicuramente Si dice anche in realtà che Strauss si servì della sua posizione di favore per mettere in salvo diversi ebrei, questo si dice. Poi cioè, adesso sembra che un sacco di gente metteva in salvo gli ebrei, com'è come non è incredibile che poi ne abbiano sterminati così tanti, visto che c'erano tutti questi che invece si prodigavano. Non lo so com'era la questione, sicuro era che Strauss aveva dei nipoti ebrei e che quindi insomma questo faceva di lui non proprio il prototipo dell'ariano che piaceva al regime. Ma tant'è. Arthur Schnitzel disse una volta ad Alma Mahler, con intento ambiguo, se tra Gustav Mahler e Richard Strauss uno dei due è ebreo, allora si tratta certamente di Richard Strauss. Questo dà anche un po' la dimensione del periodo e insomma, oh, scusate che ho tirato il tomo addosso al microfono, e del dibattito pubblico aberrante che era in corso. Basta parlare di Strauss, o meglio, basta parlare della sua vita e finisco, e poi vi lascio all'ascolto di questo poema sinfonico. Parliamo appunto più nel dettaglio di cosa vi farò sentire. Si tratta del poema sinfonico Also sprach Zarathustra, così parlò Zarathustra, opera 30. In realtà l'ho scelto perché ho fatto una liaison raffinata con la trasmissione che curo sempre io il mercoledì Slick Chick, dove abbiamo parlato di fantascienza, e questo poema sinfonico, magari così a nome molti di voi non lo associeranno, ma appena sentirete come inizia vi ricorderete improvvisamente di averlo sentito un milione di volte, perché l'introduzione parte importantissima e fondamentale del tema delle musiche appunto del 2001, Odissea dello spazio di Kubrick. Così parlò Zarathustra, composto nel 1896, è ispirato all'omonima opera del filosofo tedesco Friedrich Nietzsche, che abbiamo citato anche prima. L'usuale durata dell'interpretazione è all'incirca mezz'ora. Io ne ho scelta una che dura 34 minuti e 56 secondi. Vi leggo l'organico orchestrale voluto dal compositore. Per i legni, un ottavino, tre flauti, tre oboi, un corno inglese, un clarinetto piccolo in mi bemolle, due clarinetti in si bemolle, un clarinetto basso, tre fagotti, un controfagotto, gli ottoni, sei corni in fa e mi, quattro trombe in do e mi, tre tromboni, due tube, un organo, timpani e percussioni, piatti, triangolo, glockenspiel, gran cassa, campana in mi basso, due arpe, archi, 16 violini, 12 viole, 12 violoncelli, 8 contrabbassi, con l'ultima corda intonata in do grave. Questo per darvi un'idea, insomma, di quanta strumentazione viene tirata in ballo e insomma poi si sente, diciamo. Questa opera sinfonica, questo poema sinfonico, come lo chiama Strauss, diviso in alcune parti, ve le leggo in italiano perché davvero mi vergogno di leggervi nel mio orribile tedesco. Introduzione di coloro che vivono fuori dal mondo, dell'aspirazione suprema, delle gioie e delle passioni, il canto dei sepolcri, della scienza, il convalescente, il canto della danza e finisce con il canto del nottambulo. La data della composizione, appunto, è a Monaco, la data è il 24 agosto del 1896, come vi dicevo prima, e la prima esecuzione avviene a Francoforte il 27 novembre del 1896, quindi po pochissimo dopo. La ascolterete, non vi fermate all'inizio, perché l'inizio è il più conosciuto, ma è invece molto interessante ascoltarla per tutta la sua durata. E tra le cose interessanti, cercate di notare un conflitto continuo, iniziale soprattutto, che però continua durante tutto il pezzo, che viene elaborato nel corso della sinfonia e viene in qualche modo lasciato volutamente irrisolto. Questo era perfettamente in linea con lo spirito nichilista di Strauss, che poneva molta attenzione al conflitto e però non, assolutamente non dava soluzioni, forse perché era proprio convinto che non ce ne potessero essere. Basta, vi ho detto anche troppe cose, vi lascio con Così parlò Zarathustra, Richard Strauss, 1896. Thank you. Thank you. E questa opera sinfonica di cui vi ho parlato lungamente, così parlò Zarathustra, è finita. Finisce la puntata, anche questa puntata. E niente, vi saluto, vi do appuntamento a domenica prossima con La Fuga del Gatto. A risentirci tra una settimana. Ciao ciao! Les oiseaux tireront, le petit